baciate, ma l'amianto fa male, non diteci stronzate, il primo sondaggio lo fanno sopra la testa della gente, ma niente da fare, neanche uno che si arrende. Lo Stato garante manda i suoi soldati, ma noi non ci arrendiamo, qui ci siamo nati. Buongiorno a tutti, è il primo appuntamento, la prima intervista di questo speciale che realizziamo in collaborazione tra Radio Al Suolo, Zero in Condotta e SMK Video Factory, in occasione di questa lunga giornata a VAG 61 che ospita la Cremesse, il festival di una montagna di libri contro il TAV. E il nostro ospite è Adriano Chiarelli, che ha pubblicato con Odoia I ribelli della montagna, una storia del movimento Notav, un progetto che ci sembra insomma anche sicuramente importante, ma anche ambizioso, perché è una storia lunga e sicuramente complessa e molto sfaccettata, quella del movimento che si oppone all'alta velocità Torino-Lione, al progetto di devastazione della Valsusa. Quello che chiederei per cominciare allora è qual è la genesi di questo progetto, perché a questo punto insomma della storia di questo movimento è stato hai pensato di ricapitolare insomma da dove veniamo e come siamo arrivati fin qui. Sì, in pratica il progetto nasce circa 2 anni e mezzo fa, in seguito a una presentazione del mio libro precedente, Feci in Valle, ma la polizia. Parlando con i ragazzi di Bustoleno, il comitato Notav di Bustoleno, si ventilò l'ipotesi di provare a fare un libro che in qualche modo funzionasse da resoconto, bilancio e avesse anche funzioni informative sul movimento, proprio a partire dal discorso repressivo e da tutti gli aspetti che riguardano le forze dell'ordine. Infatti il libro, il nucleo, il cuore del libro eviscera tutti gli aspetti legati alla repressione poliziesca e giudiziaria ai danni del movimento, e da lì si è partito, si diramano insomma tutti gli aspetti di inchiesta vera e propria, inchiesta e storia principalmente, quindi il funzionamento del sistema delle grandi opere, il funzionamento del sistema alta velocità, i burocrati, gli imprenditori, i dirigenti coinvolti, i partiti, gli aspetti economici, tutto. In estrema sintesi. Proviamo un attimo ad andare con ordine. La questione del TAV racchiude in sé molti aspetti, la questione ambientale, ma anche la questione del movimento. E proprio a proposito di quello che è tutto la grande fetta della repressione, il grande argomento della repressione, visto anche i tuoi lavori precedenti, cos'è la storia del movimento Notav e cos'è invece la repressione, come si sta consumando in valle, come si è consumata negli anni? Sì, è chiaro che in uno scenario come quello valsusino, ma non solo, perché ricordiamo i Notav lottano anche su altri fronti, Terzo Valico, Brescia, Firenze, Trentino, è chiaro che con un nemico così forte, con un fronte di lotta così forte, il nemico, ovvero lo Stato, perché è questa la situazione, una situazione dicotomica, si deve attrezzare e lo fa con una forza brutale, militarizzando il territorio, reprimendo qualsiasi tentativo di ribellione a un'opera imposta, inutile e realmente dannosa. Che non è un modo di dire, non è un luogo comune. La dannosità, l'inutilità è ampiamente documentata da 25 anni di lotta. È chiaro che lo Stato non conosce mediazione, l'unica forza che può mettere in campo è quella poliziesca e quella dei tribunali. Proprio in virtù del fatto che il movimento Notav è enorme e fortissimo, ed è un'anomalia, un'unicità in Italia. È proprio come documentazione, come lavoro di documentazione, che è quello che fai attraverso il tuo libro. C'è anche tutta una parte fotografica dove cade indubbiamente l'occhio, richiama l'attenzione, dove si vede proprio la polizia, queste forme di le cariche, i fermi, e c'è una parte in cui parli proprio, spieghi proprio, la chiami Operazione Hunter, di cosa si tratta. Sì, in realtà l'Operazione Hunter è un controdossier fatto dal movimento, che io riporto nel libro, e riguarda i fatti della Maddalena, la famosa lo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena nell'estate del 2011, tra il 27 giugno e il 3 luglio. Quel dossier fotografico è stato fornito ad alcuni militanti Notav da una fonte anonima, e loro hanno costruito un controdossier che raccontasse e dimostrasse le violenze dei reparti mobili, dei cacciatori di Sardegna e di tutti questi reparti dispiegati sul campo durante quei giorni violentissimi. Chiaramente, e quindi è stato dato il nome Operazione Hunter. Io lo riporto nel libro, proprio a scopo illustrativo, lo sintetizzo, perché comunque è un documento corposo, e chiaramente non ha generato nessun effetto, ovvero nessun poliziotto imputato, nessun carabiniere, uno solo inviato a giudizio perché riconosciuto da un tatuaggio. Tutto qua. Ma riesce a farci degli esempi, degli episodi precisi, specifici? Beh, le foto mostrano. Prova a raccontarci, mi raccontavi, sei stato in valle in diverse occasioni, sì. Nel tempo, il libro l'hai scritto nel tempo, raccogliendo materiali direttamente, quindi provando a raccontare uno degli episodi di violenza. Ti riferisci a quando sono salito io? Sì, nel senso di questa dinamica di violenza repressiva tra la polizia nei confronti del movimento. Forse sono stato fortunato, alla fine non sono episodi frequentissimi. Più che altro il lavoro messo in campo dalle forze dell'ordine, che quando non si tratta di episodi brutali come questi di Operazione Hunter, è più un lavoro di sfiancamento. Perquisizione a casa, fermi per strada, misure giudiziarie come il foglio di via, l'obbligo di dimora, tutte misure coercitive, anche questa è repressione. L'episodio violento in sé è raro e va circoscritto appunto alle giornate di mobilitazione, di cortei, però va detto, vanno diradandosi, nel senso hanno capito, parlo da esterno, il movimento ha capito che è inutile cercare lo scontro diretto il più delle volte, perché la risposta la conosciamo, sono i maxi processi, gli arresti e tutto quello che ho appena accennato. Quei giorni là della Maddalena sono stati, nella storia del movimento, insieme alla presa di Venaus, i giorni più violenti. Vedo un capitolo, insomma, del tuo libro che affronta anche un'altra questione: sogni, soldi, affari, lobby e land grabbing all'italiana, perché sicuramente un'altra componente della vasta questione TAV è anche l'enorme aggroviglio di interessi economici che c'è dietro. Tra l'altro, su tutte quelle che sono le grandi opere nel resto d'Italia, sia autostrade, tratti ferroviari ad alta velocità, il Mose a Venezia, ci sono stati e hanno avuto grande visibilità mediatica maxi inchieste, scandali corposi. Qualcosa c'è stato anche sulla Valsusa, ma sembra che siano un po' passati sotto traccia, no? Che anche quando le magagne sono venute fuori, secondo te come mai avviene questo? Passano sotto traccia gli scandali, questo intendi? Sì, non si parla della Valsusa, di questo progetto di alta velocità dal punto di vista delle inchieste giudiziarie, non tanto sul movimento ma su chi ci fa dei soldi, insomma. Non è vero, perché noi non dobbiamo considerare la Valsusa è il sistema delle grandi opere in Valsusa come uno spazio circoscritto. Il sistema delle grandi opere riguarda tutto il paese. L'anomalia è che in Val di Susa si è costruito un movimento di opposizione forte, ma il sistema che c'è in Valsusa è lo stesso sistema che si sviluppa intorno alle altre grandi opere, l'Expo, il Mose, eccetera, eccetera. Il problema è ricostruire questo sistema, identificarlo, descriverlo, e vi faccio l'esempio più recente, Ercole in Calza, che è stato arrestato mentre questo libro andava in stampa. È un sistema che nasce e prospera in seno a, prima di tutto, al ceto politico, in questo caso, soprattutto in Piemonte, parliamo di PD. E da quando l'idea di alta velocità è nata in Piemonte, soprattutto da quelle parti, in Val di Susa, tutta la genia di imprenditori, imprese, affaristi e quant'altro gravitavano intorno all'orbita rossa, diciamo, il vecchio PC, poi PDS e poi PD. Quindi quando si dice che quel sistema non viene denunciato pubblicamente, in parte è vero. Forse non se ne parla estesamente in Val di Susa, perché in Val di Susa è stato posto un argine, il movimento è riuscito a arginarli gli scandali, ma la denuncia è quotidiana da parte del movimento. Non ci sono cose eclatanti come appunto l'arresto di Ercole in Calza o le tangenti di Expo, perché ancora non sono emerse delle inchieste giudiziarie, ma perché forse il movimento è riuscito a impedirla qualcosa in 25 anni di lotta. Anche se l'opera, il progetto in sé, non è immune da infiltrazioni mafiose e da interessi economici. C'è stata l'operazione San Michele che ha ha scongiurato il rischio di infiltrazioni di 'ndrangheta nel progetto TAV Valsusino, quindi sono stati fermati prima. Però se ne parla, è come se se ne parla. Un'ultima cosa prima di lasciarti andare. Sempre nel libro c'è proprio un capitolo che tu hai intitolato Si parte e si torna insieme, un'espressione che nel movimento viene spesso ripetuta, raccontata. Mm-hmm. Cosa vuol dire? Che si parte e si torna insieme, nel senso non si lascia nessuno indietro. Si parte e si torna insieme, più chiaro di così, ce la dice lunga sulla lealtà, sulla coesione che c'è nel movimento, sul senso di unità e di solidarietà. Noi ti ringraziamo per questo momento, insomma, e rimandiamo alla prossima intervista, al prossimo approfondimento che faremo nel corso di questa lunga giornata che è appena iniziata. Grazie mille. Grazie. Ciao. Secondo appuntamento dagli studi di Radio Il Suolo a VAC 61 nel corso di questa giornata di una montagna di libri contro il TAV, una giornata densa di presentazioni dalla mattina alla sera, e l'ospite che abbiamo con noi è Alberto Prunetti che presenta un libro che non è strettamente correlato all'alta velocità, è correlato però all'alta nocività, ovvero ai disastri alla salute e per l'ambiente che la cupidigia dell'uomo provoca senza poi pensarci troppo. E questo ed è anche la storia di un operaio, la storia di tuo padre. Vuoi raccontarci di cosa si tratta? Sì, molto volentieri. E il libro è la ricostruzione di una biografia di un operaio, quindi di uno che di solito è dimenticato dalla storia e dalla memoria del panorama industriale di un paese. E quindi è una storia dal basso di uno che ha fatto un pezzo nell'industria italiana del boom economico italiano, lavorando come carpentiere in ferro, saldatore e manutentore di impianti industriali. È la storia di un progresso economico che purtroppo ha prodotto profitto e ricchezze per alcuni e malattie e nocività per tanti altri. E quindi il tentativo di ricostruire questa storia in qualche maniera, quando già il protagonista di queste vicende se n'è andato per un tumore professionale, però ecco il tentativo anche di raccontare l'altra faccia dello sviluppo economico, perché ci è stata raccontata appunto un'idea di sviluppo, di imprenditorialità, di grandi costruzioni, grandi opere, come se siano la panacea per ogni male, che promettono sviluppo, ricchezza, turismo, lavoro, e poi vediamo che insomma questo lavoro è nocivo, questa ricchezza è solo per alcuni, e che le ricadute sull'ambiente e sulle persone che vivono intorno a questi grandi impianti sono tutt'altro che positive. In questo senso un legame quindi con quello che succede in valle c'è, come, ecco. E appunto era quello che volevamo chiederti. Il tuo libro si chiama Amianto, una storia operaia, però ti troviamo qui nella giornata a una montagna di libri contro il TAV. Qual è il legame, qual è il tratto di unione tra quello che tu ci racconti che è successo in Toscana con quello che sta succedendo in valle? Innanzitutto preciso questo, che il protagonista del libro era un trasfertista, cioè era un operaio che lavorava in trasferta e quindi nei suoi spostamenti andava in quelli che sono i posti più inquinati d'Italia. Quindi gran parte del libro in realtà è ambientato nel triangolo industriale tra Genova, Milano, Torino, poi c'è Terni, Taranto, un Priolo vicino a Siracusa. Ci sono i cantieri più nocivi della storia industriale italiana dagli anni 60 agli anni 90. E detto questo, il legame è anche di tipo geografico, perché l'amianto è un minerale che è stato usato ampiamente in tutto il Novecento, ma soprattutto negli anni del boom economico in Italia, ma nel resto del mondo, veniva mescolato al cemento e utilizzato sostanzialmente per fare coibentazioni in campo industriale, cioè veniva usato come isolante termico, laddove c'era, non so, tubazioni che portavano delle vapori, gas, sostanze o anche solo prodotti industriali che avevano una temperatura molto forte, si usava l'amianto per evitare ustione, appunto, per coibentare termicamente. Ecco, una delle zone in cui storicamente in Italia, almeno agli inizi del Novecento, si estraeva amianto erano le Alpi piemontesi, perché quella zona lì era estremamente, dal punto di vista proprio della composizione geologica, ricca di questo materiale. Fin tanto che sta sottoterra non fa male a nessuno, perché il problema non è che è come il mercurio, non è uranio, non è radioattivo, è un minerale che diventa pericoloso nel momento in cui viene inalato e produce un'azione meccanica di infiammazione nei polmoni di chi lo respira in discrete quantità. Ecco, finché sta sottoterra non c'è problema. Nei primi del Novecento venne aperta a Balangero, non lontano appunto dalla Val di Susa, una cava, ma anche in Val di Susa c'erano delle piccole cave di amianto che veniva estratto e poi lavorato di solito in zona. Poi nella storia del Novecento la produzione era su scala così grande, che l'amianto veniva dal Sudafrica, veniva dal Canada. Quindi a livello nazionale l'amianto che ha costruito le vite degli italiani negli anni 70 e 80 veniva dalla Val di Susa? No, diciamo che in Val di Susa si scavava amianto ai primi del Novecento per consumo locale, ancora fino agli anni 50 penso si lavorasse molto. Certo, c'erano delle cave, per esempio a Balangero, non lontano dalla Val di Susa, però il grosso della Eternit di Casale Monferrato lavorava amianto che veniva dalla Russia, che veniva dal Canada, che veniva dal Sudafrica o dal Brasile, perché veramente le quantità erano immense. Ora, il problema qual è rispetto alla questione del TAV? È che il progetto prevede lo scavo di alcuni tunnel che passano in zone in cui l'amianto è presente a livello geologico, quindi sta nei sedimenti e è legato a altre rocce. Il problema è che nel momento in cui le talpe scavano, il rischio è che poi questo amianto venga in seguito disperso nell'ambiente o che produca danni per le persone che lavorano proprio ai cantieri TAV. Andando un attimo a chiudere, verso la chiusura, su quello che è la storia proprio del tuo libro, tuo padre, qua leggo, è Renato Brunetti. Esatto. E, dal tuo punto di vista rispetto invece a quello che è proprio la stretta attualità, quelli che sono stati i nuovi risvolti dei processi sull'amianto con le grosse assoluzioni, le prescrizioni, qual è la lettura dal tuo punto di vista? È terrificante, nel senso che ovviamente c'è stato un movimento popolare, è partito da Casale Monferrato, che ha lottato per 30 anni per ottenere non la condanna di un imprenditore, ma la messa in discussione di un intero sistema industriale. E quindi hanno cercato di portare alla sbarra l'ultima persona rimasta in vita che aveva ricoperto un ruolo di responsabilità nella Eternit. Arrivato in Cassazione, questa sbarra è stata materialmente sollevata, cioè non si è riconosciuto che il disastro ambientale è un evento che ha una sua estensione, una durata, e che è qualcosa che è ancora attivo, perché ancora oggi ci sono persone che ogni settimana si ammalano per malattie correlate all'amianto e muoiono. Ogni settimana a Casale c'è un morto per un mesotelioma pleurico, una malattia correlata all'amianto. E l'interpretazione della Cassazione è che sostanzialmente la questione è finita nell'86, quando l'Eternit ha fatto fallimento. Quindi in questa maniera non solo, diciamo, si è entrati in scivolata, appunto, mandando all'aria un percorso di giustizia, se non istituzionale, di giustizia sociale dal basso, perché le persone si erano mobilitate per 30 anni intorno a questa vicenda. Si è anche impedito che, ovviamente, in altri paesi dove l'Eternit è ancora, come il Brasile, è ancora attiva, e che quel processo servisse come precedente giuridico per aprire dei nuovi contenziosi, perché ancora si scava, ancora si produce amianto, ancora ci sono operai che lo lavorano e che domani, fra 30 anni, si ammaleranno. Ma soprattutto si è avuta un'impressione che questa domanda di giustizia di tante persone in Italia sia disattesa, cioè che la giustizia sia da un'altra parte. Noi ti ringraziamo, ricordiamo il libro che è Amianto, una storia operaia, di Alberto Brunetti, per le edizioni Allegre, e a tra poco con un'altra intervista di questo speciale curato da Zero in Condotta, SMK Video Factory e Radio Il Suolo. Grazie Alberto Brunetti. Grazie a voi. Grazie. Grazie. No, no. Rieccoci con il nostro speciale e restiamo in tema per chi ci ha seguito anche nella precedente intervista, perché continuiamo a parlare di amianto, ma torniamo saldamente in Valsusa. Nell'ambito di questa lunga giornata di dibattiti e presentazioni, una montagna di libri contro il TAV che VAC61 quest'anno sta ospitando a Bologna, è intervenuto Fulvio Perini, che abbiamo con noi e saluto, per parlare di una questione che forse non è tra quelle di cui si parla di più quando si pensa alla Valle Susa e alla ferrovia ad alta velocità, ma che ci sembra decisamente grave, ovvero che abbiamo a che fare con una montagna di amianto, che è anche il titolo che l'iniziativa di stamattina ha assunto. Una montagna d'amianto perché? Perché tutte le montagne della Valle di Susa e delle valli a nord e a sud di quella di Susa contengono sempre nelle loro rocce delle quantità di amianto. Non a caso nella valle a nord di Susa, la valle di Lanzo, c'era la più grande cava d'Europa di amianto, Balangero, la cava di Crisotilo, e che alcune cave nella valle a sud, la Val di Susa, la Val Sangone, vennero chiuse perché i filoni di amianto, di tremolite in questo caso, erano tali da determinare dei livelli di inquinamento ambientale molto grandi. In Valle di Susa quello che è avvenuto è che innanzitutto hai una, un grandissimo inquinamento ambientale d'amianto per delle ragioni del tutto naturali, cioè che nei decine di migliaia di anni del passato ci sono state una serie di frane molto grandi che hanno provocato della, la liberazione di fibre di amianto di altissima intensità. Faccio due esempi: in un grambo di tessuto polmonare di un bovino coltivato in alta valle a Venaus si possono trovare 215.000 fibre di amianto in un solo grammo, e in un abitante di Ulx se ne possono trovare 650.000. Quindi siamo di fronte a delle quantità di amianto presenti nell'ambiente che superano grandemente gli inquinamenti ambientali delle grandi città, dove l'amianto è presente per i tetti, per tutte le attività industriali dal dopoguerra. Beh, lì si va a scavare, quindi lì si va a spezzare altra roccia, a macinarla con i carotaggi, e poi se ne libererà dell'altro che permarrà nell'ambiente. Noi abbiamo delle situazioni estremamente preoccupanti per queste ragioni. Cioè si fa una grande opera che determinerà altri danni alla salute della popolazione in un contesto ambientale già parecchio esposto. Ma una domanda che sorge spontanea è lo Stato che sta finanziando questi scavi, il tunnel della Valle di Susa, ha riflettuto su questo rischio? Cioè, ci sono valutazioni, documenti? Come viene giustificato il fatto di esporre una valle a un rischio ambientale di questa portata? Ma semplicemente nascondendo, oscurando o puntando a sottovalutare queste informazioni e questi dati. Comincio con un esempio. Alcuni anni or sono, quando a Ulx proprio si erano gli scavi per costruire la pista da bob utilizzabile poi per le Olimpiadi invernali, si dovettero fermare tutti i lavori perché si stava lavorando sopra delle rocce che ne contenevano elevatissime quantità. I responsabili che individuarono questa presenza dell'amianto erano funzionari, dirigenti dell'organo di vigilanza dell'inquinamento ambientale. Alcuni mesi dopo vennero rimossi. Così come oggi i controlli non vengono fatti dagli organi pubblici, ma vengono fatti da due università finanziate dall'LTF, cioè dall'azienda committente, e non riusciamo a conoscere i dati effettivi delle esposizioni e della quantità di amianto che viene liberata dalle lavorazioni. Quindi lo Stato rinuncia a essere Stato per favorire il mercato, per dirla con una battuta forse abusata, comunque con delle gravi responsabilità di non assunzione delle responsabilità dirette di controllo. E dall'altra parte, da una parte l'atteggiamento disattento dello Stato, dall'altra parte all'interno di tutta quella che è la galassia del movimento NOTAV c'è una fetta di movimento che si è impegnato, che sta portando avanti una forma di resistenza rispetto a questo argomento? C'è stata una notevole attività di sensibilizzazione negli anni. Ricordo che nel 2005 i medici della valle sottoscrissero un documento che denunciava queste esposizioni e l'accentuarsi dei rischi che comportavano un'incidenza dei tumori polmonari in valle più alta di quella della media della popolazione. Ci sono state molte conferenze, credo che ancora molto ci sia da fare, soprattutto per conquistare il fatto che ci sia una trasparenza nella, e una responsabilità delle istituzioni pubbliche nella gestione di un rischio che è un rischio molto grave. Se poi mi è possibile, è un problema che ha una rilevanza nazionale, perché purtroppo l'ultima sentenza Eternit della Cassazione ci ha detto che inquinare un territorio con agenti cancerogeni non è reato perché viene immediatamente prescritto, quando invece l'inquinamento da un agente cancerogeno comporta dei tempi di latenza molto lunghi, 20-30 anni prima che poi un essere umano contragga il cancro dall'esposizione. È un fatto gravissimo e facilita questa deresponsabilizzazione pubblica. Ringraziamo allora Fulvio Perini per averci dedicato un po' del suo tempo, anche dopo l'interessante presentazione di questa interessante dibattito di questa mattina, e noi torneremo con un'altra intervista a proseguire questo speciale in occasione di una montagna di libri contro il TAV, Zero in Condotta, Radio al Suolo, SMK Video Factory. Grazie. Grazie a voi. No, no, da. Rieccoci con Zero in Condotta, Radio al Suolo e SMK Video Factory, giunti a questo punto di questa giornata di una montagna di libri contro il TAV. Ci ritagliamo qualche minuto per parlare proprio di questa iniziativa, del percorso che ha portato a oggi, e anche di quello che sta succedendo in questi ultimi tempi in Val Susa. Abbiamo con noi Daniele e Maurizio, che sono militanti del movimento Notav della Val di Susa, e inizierei appunto parlando di questa quarta edizione di una montagna di libri che stavolta è scesa in pianura e si tiene appunto in questo spazio sociale bolognese Vox 61, che ospita anche gli studi da cui vi stiamo parlando. Ma torniamo un po' alle origini di questo progetto e alle scorse edizioni. Come nasce, come si è sviluppato? Sì, dunque, come dicevi bene tu, questa è la quarta edizione di questa iniziativa, una montagna di libri contro il TAV, che in questa occasione si è scelto di fare qui a Bologna, di uscire una volta dalla valle e farlo insieme agli amici, ai compagni di Carmilla, ad altri compagni qua di Bologna che hanno sempre un po' partecipato alla progettazione, alla realizzazione di questa iniziativa. Il senso, diciamo, complessivo, poi anche a seconda delle edizioni di questa iniziativa è cambiato, cambia un po' a seconda delle volte. Quello che si può dire, il senso complessivo, è quello di dare voce un po' a un modo di affrontare la lotta no-TAV, ma non solo, un po' tutto quello che gli sta intorno, con dei linguaggi che non sono quelli tradizionali della politica, della militanza, della propaganda e via dicendo. Ed è insomma un modo di dar voce a uno dei tanti aspetti che la lotta no-TAV ha in qualche modo coinvolto e a sua volta scatenato, no? Il fatto di affrontare, per esempio, aspetti dell'immaginario, no? Della costruzione dell'immaginario, del fantastico, del letterario, o anche come nell'ultima edizione, per esempio, di l'edizione scorsa di Una montagna di libri in valle, si è fatto della storia. Da un punto di vista diverso, non so, l'ultimo anno l'occasione anche di Una montagna di libri è stata l'occasione per affrontare la storia della valle di Susa in termini un po' differenti, no? L'idea di riappropriarsi della propria storia nel momento in cui un popolo, una popolazione inizia a lottare contro un progetto di distruzione della propria valle, inizia a interrogarsi anche sui perché di questo e sulle possibilità diverse, no? di vivere il proprio territorio, e quindi questo già di per sé porta a in qualche modo a ricercare e riflettere su quello che è stato il proprio passato oltre che il proprio futuro, e quindi a aprire tutta una serie di strade di ricerca, di immaginario che è in tante iniziative, tra queste anche Una montagna di libri contro il TAV, hanno trovato il loro spazio. E a A proposito di questo percorso storico che la Valle sta affrontando, quali sono le ragioni del movimento NOTAV? Perché NOTAV? Perché NOTAV, in che senso, scusami? Perché non esiste, quali sono le ragioni di questo movimento? Ah, in generale, perché sì. La Valle si è scoperta NOTAV? Sì, beh, chiaramente è una storia molto lunga, perché come sapete sono più di 20 anni che esiste questa battaglia. Quello che si può dire per riassumere molto velocemente che, ed è anche secondo me l'aspetto interessante, no, dello sviluppo di questa lotta, è che è una lotta nata sicuramente da ragioni locali, nel senso di un rifiuto di un progetto che andava a interferire, a distruggere con il territorio della valle, quindi con la vita e l'attività dei valsusini, della gente che veniva coinvolta dal tracciato di questo progetto. L'aspetto che ha fatto crescere questa lotta è sia da un lato dinamiche interne, soggettive, no, di ricerca, di nel momento in cui tu inizia a confrontarti con, diciamo così, un anello, no, della catena dell'oppressione, dello sfruttamento capitalista. Questo facilita il fatto di cercare di poter vedere l'intera catena, no, che ti opprime. Quindi c'è stato questo tipo di percorso, anche grazie, tra virgolette, grazie alla repressione dello Stato, a quello che è stato l'atteggiamento dello Stato, della politica tradizionale, dei poteri che insomma hanno dimostrato, hanno fatto, diciamo così, una lezione molto chiara su quello che è il ruolo dello Stato, della polizia, e quindi la gente pian piano si è resa conto, no, di tutte queste, nel momento in cui magari persone che appunto non erano militanti, politicizzati, e che avevano anche fiducia nelle istituzioni, sia nelle istituzioni locali che nella polizia, nel corso degli scontri hanno capito qual è il vero ruolo di queste forze, di queste istituzioni, e quindi nel corso degli anni la critica, da una critica, da diciamo una battaglia di difesa della propria vita, si è sviluppata in una critica molto più complessiva. Quello che viene criticato del TAV non sono solo i disastri ecologici, diciamo così, che porterà in valle, ma tutta le conseguenze, le ragioni di quest'opera, quindi dagli aspetti economici, quindi come spreco di risorse che quindi non vengono destinate ad altre necessità molto più impellenti della società. Cioè il fatto che per esempio a Susa o in generale in valle chiudono gli ospedali, chiudono le scuole, tutte le attività che veramente servono ai cittadini o che servirebbero ai cittadini chiudono, e i soldi vengono investiti in questo. Anche lì è un esempio di come vengono sprecate le risorse, ed è qualcosa che ti fa ragionare, no, nel momento in cui tu ti ci scontri veramente, ti fa ragionare sul quadro più complessivo, e questo un po' su tutti i campi, no? Rispetto alla corruzione, alle infiltrazioni mafiose, a problemi di salute, di come vengono affrontati. Insomma, è stato un po' un percorso in itinere che ha portato un po' alla consapevolezza che c'è il ruolo dei media, della repressione. Sono tutti argomenti che pian piano, confrontandocisi direttamente, sono entrati e oggi rappresentano un po' la forza, no, del movimento NOTAV, la consapevolezza di combattere contro un nemico molto più grande, no, che quello di un treno. Ecco, ultimamente purtroppo si parla di movimento NOTAV spesso per i maxi processi, per le sentenze, per le conseguenze sul piano giudiziario di delle importanti momenti di lotta che ci sono stati negli ultimi anni, e rischia almeno secondo noi di passare un po' in secondo piano, sullo sfondo, quello che continua a succedere in Val di Susa. Potrebbe insomma essere interessante capire adesso che sta succedendo sia dal punto di vista loro, cioè questo millantato inizio dei lavori, cosa sta succedendo o non sta succedendo nel Fortino, nel cantiere Fortino che da qualche anno c'è in Val Susa, e soprattutto ci interessa capire come sul territorio continua a organizzarsi il movimento, cosa succede anche nella quotidianità della lotta Notav. In Val Clarea, dove c'è appunto l'unico cantiere aperto riguardo all'alta velocità a ovest di Torino, continuano i lavori secondo un calendario che appunto all'esterno non è molto così ben chiaro, però loro dicono che insomma stanno rispettando più o meno i tempi. Non è un cantiere dell'alta velocità questo, ma un cantiere geognostico. Questo è molto importante da specificare per capire insomma com'è la montagna e poi di conseguenza riuscire a scavare il tunnel di base, quello sì dell'alta velocità, quindi è un cantiere di servizio dell'alta velocità, non è ancora il bello cantiere dell'alta velocità questo, una galleria di servizio quella che stanno facendo, e continuano a scavare. Appunto pare che siano arrivati a 3 km su 7,5 che devono realizzare. Ogni tanto ci vengono forniti dei dati, non sappiamo esattamente se i tempi riusciranno a essere rispettati secondo questo calendario, quindi ecco, c'è questa realtà, non c'è nient'altro, c'è questo cantiere fortificato, loro sono all'interno e si procede così, in questo modo. Poi se uno segue un po' la vicenda sui mass media così è molto confusa, non si sa le prossime tappe quali saranno esattamente, ci sono date che slittano, c'è molta confusione, insomma loro stanno aspettando soprattutto i finanziamenti della Comunità Europea che deciderà entro l'estate quanto dare, quanti soldi dare, se darli, quanti soldi dare su tutta l'opera, sull'alta velocità appunto Torino-Lione, e quindi siamo in questa fase molto di attesa sia da una parte che dall'altra per riuscire a capire se con questi soldi che arriveranno potranno aprire altri cantieri o meno. Per quanto riguarda la valle, in realtà insomma le cose continuano sempre come prima, la valle ormai ha un'esperienza pluridecennale di lotta, certamente ci sono dei momenti in cui è più evidente questa lotta, altri momenti in cui rimane sotto traccia, perché le condizioni esterne, appunto oggettive, sono di un certo tipo e quindi ci si regola di conseguenza. I comitati comunque stanno funzionando, assemblee e riunioni non mancano mai, si è sempre pronti, siamo comunque alla vigilia di un'estate, e tradizionalmente l'estate da sempre, poi soprattutto da qualche anno a questa parte, quando hanno aperto quel cantiere, diciamo c'è un florilegio di iniziative, ci sono molta gente che viene a trovarci, che passa di lì, che si ferma, quindi ecco, siamo pronti di nuovo a mettere in campo tante iniziative, questa è una di queste iniziative, appunto questa di Bologna, per carità, e quindi la lotta insomma sta procedendo insomma secondo un po' i copioni sia da una parte che dall'altra che ormai si sono instaurati in questi anni. Vi ringraziamo per questo contributo e questa preziosa momento, possibilità di confrontarci e di avere qualche informazione direttamente da chi con la lotta Notav vive fianco a fianco ogni giorno, e lo speciale che stiamo realizzando sulla montagna dei libri contro il TAV continua tra poco. No, no, TAV, no. E siamo all'ultimo segmento del nostro speciale in occasione di una montagna di libri contro il TAV, dagli studi di Radio al Suolo e in collaborazione con Zero in Condotta, SMK Video Factory. Il nostro ultimo ospite, direi che non ha bisogno di presentazioni, soprattutto per chi segue da tempo Zero in Condotta. Siamo con Valerio Monteventi, che proprio in vista della giornata di oggi ha assemblato, come scrive in quarta di copertina, compagni di sentiero, ribelli di montagna, in vario modo e in varie epoche partigiani. Un, un piccolo opuscolo autoprodotto e dici un po' cosa hai voluto raccontare, insomma, con questo tuo nuovo libro. Una cosa a cui tengo molto, cioè la raccolta di storie orali sono elementi importanti per costruire una storia vera, che vada oltre questo ragionamento odioso che viene avanti in quest'ultimo periodo sulla memoria condivisa. Queste storie, che singolarmente possono sembrare storie insignificanti, in realtà secondo me arricchiscono, per esempio per quanto riguarda il periodo della Resistenza, una storiografia ufficiale che è stata scritta su canoni abbastanza definiti. E le storie sono appunto storie che io ho raccolto nel corso degli anni. C'è un po' questa mania, insomma, di sentire persone che fra un po' di tempo forse non lo potranno più raccontare per l'età, e di volta in volta prendevo appunti, le ho scritte e quindi poi alla fine le ho assemblate per necessità, rispetto al fatto che sembrava opportuno su questa rassegna cui noi teniamo molto, noi intendo uno spazio come VAG, l'esperienza come ZIC, stati molto contenti di essere coinvolti da parte dei compagni della Valsusa, da parte della redazione di Carmilla in questa iniziativa. E mi sembrava il caso, rispetto a un invito che Valerio Evangelisti mi aveva fatto di avere uno spazio dentro questa rassegna, di scrivere qualcosa ad hoc, insomma, che non fosse la riproposizione di un testo, di un libro che avevo già scritto. Tra i vari personaggi, tra le varie storie che racconti, c'è anche quella di Paolo Fabbri, che è anche il luogo dove ci incontriamo e che attraversiamo ogni giorno, ed è la via dove c'è proprio il VAG 61 in via Paolo Fabbri 110. Chi era quest'uomo? Cosa ci racconta? Beh, è una storia molto particolare. Paolo Fabbri è stato un resistente, un partigiano, è morto pochi giorni prima dell'aprile 45. Lui è originario di Conselice, era figlio di contadini poveri e questa sua provenienza lo porta a diventare negli anni della giovinezza un organizzatore di lotte contadine, soprattutto nei territori di Molinella, dove lui si trasferì. All'epoca Molinella era un territorio, un paese famoso per le mondine, per la lotta delle mondine e per le lotte agricole. Quando i nazifascisti occuparono quel territorio, la prima cosa che cercarono di fare era appunto di distruggere l'organizzazione dal basso che i braccianti, i contadini si erano dati. E Paolo Fabbri in questo contesto ebbe un ruolo fondamentale per quanto riguarda la resistenza. Tenete conto che il metodo che i nazisti usarono in quei giorni era quello di arrestare gli uomini e deportarli in campi di concentramento, distruggere le sedi delle leghe bracciantili e lasciare che il paese fosse un paese di donne, vecchi e bambini. Per questa sua lotta di resistenza, Paolo Fabbri viene mandato al confino a Lipari. E qui c'è un episodio importante nella sua vita. Lui organizza la fuga dal confino, il confino che è diventato purtroppo attualità in questi giorni, con la vicenda appunto del diritto di dimora per i compagni di Obo, è una misura già utilizzata alcuni mesi fa per altri compagni di movimento. Lui dal confino organizza la fuga di tre personaggi importanti nel mondo della resistenza, Nitti, Carlo Rosselli ed Emilio Lussu, e decide per far riuscire in maniera adeguata la fuga, che a pagarne le conseguenze maggiormente sarà lui. Quindi riescono a scappare questi tre, lui invece, per far riuscire la fuga, decise di rimanere, e a questo punto fu condannato a 7-8 anni di carcere. Quindi nella sua vita c'è prima questo c'è prima l'episodio appunto delle lotte bracciantili, poi c'è il confino e poi c'è il carcere. Uscito dal carcere ricomincia a costruire una attività di copertura per la clandestinità partigiana, nel senso che mette in piedi un'azienda di vernici nel centro di Bologna, e tutti i dipendenti di questa azienda erano partigiani antifascisti clandestini di altre città, e quindi questa era, diciamo così, un'azienda di copertura. I fascisti sospettano appunto di questa attività, però non riescono ad avere prove concrete. Però nel corso appunto di questi anni lui viene di nuovo arrestato, e quando ci fu in Italia la visita di Hitler, lo prendono e lo arrestano preventivamente, lo fanno stare un tot di giorni a San Giovanni in Monte. Quando esce da San Giovanni in Monte decide che a questo punto non aveva più senso vivere con questa modalità, si dà la clandestinità, si dà la macchia e decide di andare in montagna all'età di 56 anni, però era uno molto forte fisicamente, quindi cioè faceva gara con i suoi compagni di brigata molto più giovani lungo i sentieri partigiani, e diventa un esperto politico-militare molto, molto importante e molto in gamba. Lui non era un comunista, era un socialista, però aveva sempre criticato anche gli attendismi del suo partito di fronte appunto all'esperienza partigiana, e quindi era uno che si era sempre deciso di giocare la sua esistenza in prima persona rispetto a quello che pensava e a quello in cui credeva. Appunto per questa sua esperienza viene delegato dal comando partigiano dell'Appennino Tosco-Emiliano di andare a fare un trasporto di soldi dal CNL di Roma e portarlo a Bologna. Erano fondi necessari appunto per finanziare e sostenere delle azioni di resistenza, assieme ad un altro partigiano, e al ritorno con appunto questa cifra consistente da utilizzare per queste finalità. Sembra sia stato tradito dalla guida che doveva facilitare il passaggio del valico appenninico durante l'inverno. Sparisce qualche settimana prima appunto dell'aprile 45, e il suo corpo viene ritrovato nel 1946 in un paesino, in una frazione di Gaggio Montano sull'Appennino bolognese. Quindi c'è questa fine oscura, e sembra che questa guida, insomma, alla fine abbia tradito i due partigiani per motivi banali economici. Insomma, qualcuno dice questo, qualcun altro invece racconta che questa guida aveva venduto la vita dei due partigiani ai nazisti, insomma, che poi l'avevano preso. Quindi questa è un po' la vicenda di Paolo Fabbri. Ringraziamo Valerio per aver partecipato anche lui al nostro speciale, che andiamo a chiudere ringraziando anche Radio Al Suolo per l'ospitalità e per aver curato le registrazioni audio, SMK Video Factory per le registrazioni video. Per chi ci ascolta in radio vi lasciamo al resto della programmazione, e per chi ci segue su internet alla consultazione dei nostri siti www.zig.it, www.radioalsuolo.org. È tutto dagli studi di via Paolo Fabbri. Buona giornata a tutti. Io sto con le montagne.